Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Notate per caso che i vostri occhi piangono senza un apparente motivo? Potrebbe trattarsi dell'occhio secco, è una condizione in cui la superficie oculare non è sufficientemente lubrificata e protetta dal film lacrimale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è un problema in crescita, soprattutto fra gli over 50, ma anche tra i ragazzi. Per questo gli oftalmologi italiani si sono riuniti e hanno presentato le prime raccomandazioni condivise a livello nazionale. A Obiettivo Salute il professor Maurizio Rolando dell'ISPRE Oftalmica di Genova ci dà alcuni consigli per gestire e prevenire il problema. La cosa importante è prevenire. È possibile aiutare il paziente, per esempio, quando ci sono queste condizioni di lacrimazione al freddo e così via. Spesso prima di uscire di casa una lacrima artificiale riesce a tranquillizzare la superficie dell'occhio e a difenderla in modo tale che non si lacrimi più. Altre cose sono il continuo bruciore e il senso di fastidio. Beh, le lacrime artificiali non servono per togliere il fastidio, ma servono perché il fastidio non venga. Quindi se noi impariamo, quando è il momento critico in cui dopo 2 ore che lavoriamo al computer ci bruciano gli occhi, prima di iniziare a lavorare al computer mettiamo una goccia di sostituto lacrimale. Quando entriamo in un supermercato, prima di entrare al supermercato mettiamo una goccia di sostituto lacrimale, in modo da tenere l'occhio più quieto possibile, perché se l'occhio si infiamma poi tende a mantenere una cronicizzazione della malattia. Quindi l'importante è sapere che esiste il problema, gestire il problema in modo tempestivo, ossia se possiamo anticipiamo il disturbo. Questo fa sì che non si sviluppi l'infiammazione e possiamo vivere meglio. Magre a tutti i costi, magre da morire. Il caso della blogger che induceva ragazzine a perdere peso con una dieta a bassissimo apporto calorico è probabilmente solo la punta di un iceberg. L'anoressia è uno dei più importanti e pericolosi disturbi del comportamento alimentare. I numeri stanno aumentando e l'esordio è sempre più precoce. Sulle pagine di Obiettivo Salute il dottor Stefano Erzegovesi, responsabile del Centro Disturbi Alimentari del San Raffaele di Milano, ci spiega i segnali da non sottovalutare e cosa fare per chiedere aiuto. Ricercatori canadesi mettono nero su bianco che l'esercizio fisico fa bene alla memoria, e a proposito di memoria vi ricordo che da oggi parte il nostro programma speciale col dottor Franco Confalonieri in forma per le feste, quindi se volete essere dei nostri seguiteci in diretta video tra pochissimi minuti. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto invece in diretta, in tuta direi, per allenarci con il dottor Confalonieri. Un saluto, a domani da Nicoletta.